per prossime vicende, alterne fortune e sfortune. E il fascismo cresce a partire dalla metà degli anni 20 con la cosiddetta fascistizzazione dello Stato, le leggi del 25, raggiunge il massimo del consenso a metà degli anni 30 in occasione della proclamazione dell'impero, e il consenso al fascismo rimane ad altissimi livelli fino a quando l'Italia entra in guerra con il 1940. Il consenso al fascismo comincia a entrare in crisi nel 43, nel luglio del 43 e dopo l'8 settembre del 43. E la relazione di Santopelli la settimana scorsa parlava soprattutto proprio di questo periodo, settembre 43, maggio 1945. La resistenza al fascismo però chiaramente si è sviluppata anche precedentemente, però non a livello militare, non a livello organizzato, però era una resistenza politica e intellettuale, che si svolgeva a volte in Italia, a volte nei centri antifascisti all'estero, a Mosca, a Parigi soprattutto. E l'intelligenza antifascista che viveva e molto spesso interveniva nel dibattito politico e culturale dall'estero aveva elaborato anche delle posizioni rispetto alla riforma dello Stato. Perché il fascismo ha sicuramente fascistizzato lo Stato, però fondamentalmente lo Stato era lo Stato liberale ottocentesco. Era la struttura con un forte Stato centralista, migliaia e migliaia di comuni, e il reticolo dei comuni era ancora il reticolo napoleonico fondamentalmente. Il fascismo anzi razionalizza questo reticolo napoleonico nel 27, no? Ecco, nel 27 realizza alcune nuove province, non a caso anche la provincia di Bolzano, però nel 26 accorpa molti comuni e quindi vengono sfoltiti, diciamo così, questi comuni minori. Nel nostro caso, ad esempio, nel 26 il comune di Gries viene annesso al comune di Bolzano. Però fondamentalmente lo Stato era lo Stato centralista, ottocentesco, una grande testa. Le province e le regioni non avevano delle grandi funzioni politiche. Pensiamo che le regioni previste nella Costituzione vengono poi attuate solamente a partire dagli anni 70 del nostro secolo, per cui insomma, è un processo lentissimo che si sta formando tuttora. Le province, non dobbiamo pensare alla provincia di Bolzano, alla provincia di Trento, dobbiamo pensare che anche le province di fatto in Italia tuttora sono dotate di scarsissime competenze e scarsissimi finanziamenti. E quindi lo Stato era una grande testa e fondamentalmente lo Stato che opera in periferia, nelle regioni, con i prefetti. Il fascismo fascistizza quindi questo Stato, i prefetti nei primi anni 20 erano prefetti di carriera, poi vengono nominati politicamente per meriti politici. In questo periodo, quindi negli anni 30, ci sono degli intellettuali che cominciano a mettere in discussione la forma dello Stato liberale, sia la forma precedente al fascismo, sia ovviamente lo Stato fascista. Uno dei saggi di Trentini si intitola ad esempio Liberare e Federare, no? Ecco, mette subito in relazione i due elementi, della liberazione e del federalismo. Pensiamo poi dopo ovviamente anche ai manifesti di Ventotene, di Spinelli e di Rossi, che in qualche modo anticipano il dibattito che poi si è sviluppato anche durante la Resistenza. E per questo motivo quindi il secondo incontro di questa mini serie di conferenze prevede appunto una relazione di Marco Borghi di Venezia, collaboratore dell'Istituto per la Resistenza di Venezia, sul tema Resistenza, Federalismo e Autonomia. Marco Borghi ha curato recentemente questo volume intitolato Nella Resistenza, Vecchio e Giovane Venezia 60 anni dopo, una serie di interviste fatte a esponenti dell'epoca. E sul problema specifico che tratterà oggi pomeriggio, questa sera, ha pubblicato un saggio intitolato Autonomia, regionalismo, localismo, un percorso nel Veneto nel secondo dopoguerra, 1945-1946. Prego. Sì, ringrazio molto Giorgio di questo invito, perché si fa un gran parlare da ormai da una decina d'anni, 12, 13, di federalismo, di autonomia, di decentramento, di regionalismo, un po' credo anche con poca cognizione di causa. Quando un termine entra nel lessico politico, spesso si svuota invece dei suoi contenuti. Ed è poi passata un'idea, credo impropria, che questo gran dibattito intorno alla ridefinizione della forma dello Stato, del potere centrale, potere periferico, dei cittadini con il potere, sia emerso appunto dalla fine degli anni 90, dalla fine degli anni 80. E questo naturalmente non è vero. Non è vero perché se è vero che questi temi emergono durante i momenti di crisi dello Stato, è successo nel 1848, nel 1866-67, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, durante il 43-45, quando lo Stato incomincia a non tenere più il suo territorio e quindi emergono queste forze centripete che cercano nel piccolo forme diverse di governo, appunto dicevo, non è vero che una tradizione, un pensiero federalista, autonomista, che è già cosa diversa, e regionalista, non ci fosse stato anche in precedenza. Tanto più nel 43-45, che è un momento durante il quale si verifica un laboratorio di idee. La resistenza non è solamente e unicamente scontro armato o disarmato contro fascisti, tedeschi, collaborazionisti e militanti della Repubblica Sociale Italiana. La resistenza è un laboratorio per il dopo. Nel 43, nel 44 si intuisce che ci sarà un dopo. E quale sarà questo dopo? Ecco, un merito, credo, il merito importante nel dibattito politico della resistenza è quello di mettere sul campo una serie di prospettive per ridefinire uno Stato, un assetto, una nazione che usciva da un'esperienza come quella dello Stato liberale e ancor di più da 20 anni di fascismo, con delle caratteristiche precise. Caratteristiche che dal punto di vista istituzionale si possono riassumere in un rapporto verticistico tra centro e periferia. Il centro è colui il quale deve imporre la propria linea attraverso le sue articolazioni periferiche, i prefetti, ma anche gli intendenti di finanza, piuttosto che i provveditori agli studi. Il territorio deve recepire, deve assorbire meccanicamente quello che arriva dal centro, che viene elaborato dal centro. Il fascismo esaspera questa concezione, la esaspera all'interno di una griglia in cui mescola nazione e Stato, che sono due cose diverse. E quindi l'antifascismo, che prima all'estero, in esilio, oltre confine, e poi nei luoghi di concentrazione dell'antifascismo, quindi il confino o il carcere, inizia a pensare ed elaborare il post-fascismo. E tra le innumerevoli elaborazioni che possono uscire, che stanno uscendo, un punto, un posto centrale nel dibattito, poi vedremo in che misura e che forze politiche si approprieranno di queste concezioni, è quello della ridefinizione del rapporto cittadino-territorio-potere e in questa prospettiva rilanciare e cambiare anche orizzonte alla cultura federalista italiana, che è una cultura presente nella storia italiana post-unitaria. È una cultura perdente anche. Dopo il 66, dopo il 60, il dibattito tra Cavour e Minghetti, in qualche modo rappresentati, che sono due elementi più rappresentativi, sul quale appunto configurazione, quale assetto dare a questo miscuglio di stati che hanno convissuto per centinaia d'anni, ma che adesso si trovano invece a vivere e a convivere una vita comune, è uno dei punti fondamentali. Prevale il modello subalpino, incentrato appunto sull'articolazione forte del potere periferico dello Stato, ed è una concezione che l'Italia conosce fino al fascismo, e il fascismo se ne appropria di questa, esasperandone alcune caratteristiche. Ma una concezione, una cultura federalista era presente nel territorio e nella vita politica italiana. Il municipalismo socialista del primo dopoguerra, quando finalmente ci si accorge che attraverso l'amministrazione locale, di solito appunto i comuni, si può avere uno strumento di penetrazione politica. Il decentramento proposto dall'area cattolica, molto forte anche questo. Pensiamo alla parabola di Don Sturzo, che fino all'ultimo sarà coerente con una proposizione di decentramento e di riconoscimento del territorio. Ecco, naturalmente siamo ancora nell'ambito di una cultura, di una scienza, se vogliamo, della politica, non di una proposta politica. Dagli anni 30, prima oltre confine, soprattutto in Francia, con Trentin, magari dopo faremo un piccolo accenno, e soprattutto poi nei dibattiti che si svolgono all'interno dei confinati, quindi a Ventotene, si va a elaborare una proposta politica che segna uno stacco netto rispetto al passato. E questo stacco viene ben individuato da Norberto Bobbio nel 74, che a proposito di questo tema, dell'idea anche dell'unificazione europea, perché l'europeismo è un'altra parte, un'altra faccia del federalismo. Non è semplice dare una definizione unitaria di questo termine, perché poi ognuno di questi gruppi ha interpretato in maniera diversa le caratteristiche. Norberto Bobbio disse che appunto con il manifesto di Ventotene, detto dal luogo dove erano confinati, che si chiamava la crisi dell'Europa, della civiltà e dell'Europa, quindi termini forti, crisi, civiltà, Europa, da un'idea fondamentalmente profetico-evoluzionistica diventa e si incarna in un movimento politico, cioè un movimento che si aggrega intorno all'idea del federalismo. Non è più una discussione teorica, astratta, accademica, ad esclusivo uso e consumo di circuiti ristretti. Un movimento che si chiamerà Movimento Federalista Europeo e che avrà una lunga storia fino ai giorni nostri, si propone di tradurre in politica, quindi in strumento politico, l'idea del federalismo. È una novità. È una novità che non viene recepita immediatamente da tutto l'antifascismo. L'antifascismo ha famiglie culturali diverse, ha origini e radici diverse. Sono gli esponenti di Giustizia e Libertà, nati e cresciuti in un Piemonte che aveva fortemente sentito le aspettative anche federaliste. Sembra un paradosso, il Piemonte sabaudo, il Piemonte che propone lo Stato centrale con i prefetti, via dicendo, allo stesso tempo è un laboratorio di nuove idee. Sarà che stiamo parlando sempre di aree di nella Resistenza, poi lo puntualizzerò con una maggior precisione, dove emerge un dibattito ad alto livello sul federalismo? Emerge nei protagonisti che provengono dal Piemonte, dal Veneto, dal Trentino, aree in cui la presenza, anche naturalmente, e la ridefinizione del fascismo aveva maturato idee nuove. Quindi nel 1941 l'antifascismo, o perlomeno una parte dell'antifascismo, si fa carico di proporre questa nuova proposta politica. Siamo ancora però in una fase confusa. Federalismo, ma in che senso? All'interno di uno Stato o federalismo fuori dello Stato? Un federalismo infranazionale, quindi rivolto all'interno del territorio, o un federalismo sovranazionale? Cioè, prima si fa l'Europa e poi si fa l'Italia, o prima si fa l'Italia e poi si fa l'Europa? Qui inizia un dibattito che continuerà durante la Resistenza e soprattutto poi nel dopoguerra, e che vedrà contrapposte diverse scuole di pensiero. Il Movimento Federalista Europeo e poi altre associazioni che nascono da questo movimento non hanno interesse a pensare al federalismo interno, anzi c'è un po' di diffidenza nella cultura regionalista. Le regioni, ma le regioni quali sono? Non esistono le regioni, è un'invenzione che noi ci diamo per trovare un territorio, o forse anche queste hanno un passato, un'eredità che va valorizzata. La scuola di pensiero di Altiero Spinelli, che resterà anche poi nell'immaginario collettivo il maggior protagonista del federalismo italiano, è assai perplessa nel vedere e nel costruire all'interno dello Stato italiano un assetto federale. Prima bisogna ricostituire l'Europa. Naturalmente è come dire, un'aspettativa che nasce dalla crisi profonda degli Stati-nazione durante gli anni 30 e 40. Queste persone hanno di fronte a sé lo sfascio dell'Europa, che ha visto crescere al suo interno, radicarsi e diventare soggetto principale il nazismo, il fascismo. E quindi il loro pensiero è rivolto innanzitutto a ripensare il concetto stesso di Europa. È un percorso che poi sarà perdente. Dal 48, 47, 48 l'Europa resta sulla carta, ma i blocchi decidono poi il territorio. E quindi è un concetto che resterà sempre racchiuso all'interno di piccoli circuiti, di circuiti di alto profilo, di altissimo profilo, ma che non riescono poi a tradurre concretamente questa idea di Europa. D'altronde siamo all'oggi, anche noi oggi fatichiamo e non poco a pensare a un'Europa che non sia un'Europa di stati. Ci sono stati dei passaggi e delle accelerazioni, soprattutto in questi ultimi anni, ma resta forte la perplessità in molti di noi su come si sta costruendo l'idea europea. È meglio costruirla prima delle costituzioni, o le costituzioni sono determinanti per creare uno spirito europeo? Quindi pensiamo 60 anni fa, nella tragedia dei nazionalismi esasperati, nella tragedia dello sfascio europeo, quale fosse anche il dibattito interno. Si arriva quindi alla caduta del fascismo con già un buon background federalista alle spalle. Ed è soprattutto l'idea stessa della riconfigurazione dello spirito europeo che muove gli antifascisti di Giustizia e Libertà e poi del Partito d'Azione. Con il 43, dopo l'8 settembre 43, le cose però cambiano. Cambiano perché all'interno della prospettiva federalista, che diventa forse il maggior punto di azione politica del Partito d'Azione, formazione nata nel 1942, che raccoglie l'eredità del liberal socialismo di Giustizia e Libertà, di Fratelli Rosselli, che riesce a elaborare una strategia e un'opzione politica che vuole essere la terza via da quella che si va configurando, blocco sovietico e prospettiva invece conservatrice o reazionaria. Il Partito d'Azione fatica perché al suo interno esistono diverse anime. Sostanzialmente sono state individuate con precisione in Piemonte, dove gli studi, anche perché la tradizione azionista in Piemonte ha continuato poi a vivere e a vivacizzare il dibattito e la vita culturale non solo del Piemonte naturalmente, in Piemonte si individuano per esempio tre componenti del federalismo durante la Resistenza. una componente federalista europea pura, quindi il discorso facevo prima, un ritorno all'idea solo ed esclusiva di Europa, una componente regionalista e autonomista arricchita dalle tradizionali lotte di vari gruppi etnici, linguistici e religiosi, cioè un federalismo che comincia invece a guardare più al proprio interno, alle proprie caratteristiche storiche, al proprio rapporto che ha avuto nella sua storia diverse etnie, minoranze, confronto, dialogo, e un'ultima componente, una componente sociale introdotta direttamente dalla lotta del movimento operaio, che mi sembra francamente la componente più debole. È vero che Gramsci parlava in termini, non dico federalisti, ma certamente costruttivi e propositivi dei consigli degli operai, dei soviet, che possono anche, è così, con una certa forzatura, prefigurare una sorta di opzione federalista. Ma il movimento operaio e il partito che incarnò principalmente le sue idee, cioè il Partito Comunista, non fu mai, come dire, attratto troppo dalla prospettiva federale dello Stato e dalla prospettiva regionalista. Anzi, per quello che ho visto io, le perplessità diventano anche asperità nei confronti, durante i dibattiti dei CLN clandestini, durante i dibattiti attraverso la stampa, nei confronti di chi invece propone un'accelerazione fin dalla resistenza. Il PC su questo mi sembra piuttosto restio ad accettare un'idea dove il centralismo, certamente non nelle forme e nei contenuti conosciuti con il fascismo, resta una delle caratteristiche fondamentali dell'azione politica. D'altra parte, la storia politica di questo partito ci ha insegnato che il centralismo, inteso come omogeneità di azione su tutto il territorio, era uno dei punti forti dell'azione del Partito Comunista. Quindi inizia nel 43-45 ad esserci un confronto sul quale tutti sembrano d'accordo. È chiaro che il fascismo sta per cadere, lo Stato deve essere rivisto, il centralismo romano e in particolare autoritario del fascismo deve essere assolutamente ripensato, ma le formule che si adottano a volte sono piuttosto ambigue nei confronti di chi invece propone con forza la revisione dello Stato italiano. E qui nascono i problemi. Nascono i problemi perché si comincia a giocare a carte scoperte. Il Partito d'Azione, come dicevo, che eredita questa grande tradizione liberale, laica, socialista, vede nelle proposte, nel progetto federalista, anche il punto di unione, cioè come tradurre il socialismo, svincolandolo dalle sue forme, delle sue bardature più direttamente riconducibili a un centralismo. E Silvio Trentin, il quale è stato evocato poco fa, è la sintesi di questo pensiero. Trentin crede fortemente che attraverso la ridefinizione del territorio a tappe intermedie, lui parla di autonomie intermedie e anche autonomie che devono così riconfigurare i rapporti sociali ed economici, crede che sia l'unico strumento attraverso il quale coniugare libertà e socialismo, che è uno dei grandi temi e una delle grandi obiezioni che gli azionisti rimproverano al Partito Comunista. In qualche modo gli azionisti, pur riconoscendo la forza, la tradizione del movimento operaio dell'Unione Sovietica, sanno che questi due termini, socialismo e libertà, configurati in questo momento, in questa contingenza storica, sono inconciliabili. E quindi il federalismo può essere una via che riesca a conciliare questi due termini. Silvio Trentin non solo scrive libri e riviste dove appunto enuncia liberare e federare, ma addirittura fonda un movimento resistenziale, Libérer et Fédéraire in Francia, che vasti consensi, ma anche diverse perplessità. Nella Francia, forse più di ogni altro, ha confronti francesi, ma a forte confronto tra altri. Stiamo parlando di Remo Bianchi, che è del federalismo. Si appresta a un rapporto, a lavorarsi attraverso strumenti intellettuali. L'autonomismo invece no. L'autonomismo propone delle situazioni concrete, propone delle soluzioni concrete nel territorio. E qui naturalmente le orecchie diventano molto più ricettive. Tanto più che anche prendendo una suggestione di Guido Quazza di qualche anno fa, ma credo molto, molto puntuale e pertinente, quando appunto Quazza dice il partigianato, il mondo delle brigate, dei partigiani, aveva acquisito sul campo una sorta di autonomismo esistenziale. Quando arrivava un attacco da parte delle truppe tedesche, naziste o fasciste, noi non avevamo il tempo di chiedere al CLN di Torino, piuttosto che al CLN provinciale o al comando militare provinciale, cosa fare. Noi dovevamo decidere, dovevamo elaborare delle soluzioni immediate, delle soluzioni efficaci. È un microcosmo che però dà anche il senso, naturalmente, a quello che si vuole poi nel dopoguerra tradurre immediatamente, cioè il riconoscimento della propria capacità di adattarsi al territorio, di trovare delle soluzioni in virtù della conoscenza del territorio più efficaci rispetto a presenze non estranee ma esterne, e la capacità di armonizzarsi con il quadro complessivo. Perché un punto, forse se no si potrebbe anche rischiare di scivolare in qualche ambiguità, è che in tutte queste elaborazioni, sia quelle dottrinali di un certo livello, sia quelle medie che quelle basse, non si viene mai a mettere in discussione l'unità dello Stato, l'unità territoriale. Anzi, quando nei fermenti del dopoguerra parti consistenti del sud e soprattutto in Sicilia il secessionismo acquista una forza via via sempre maggiore, sono gli stessi antifascisti a interrogarsi profondamente in queste elaborazioni. Cioè si chiedono che non stiamo anche noi correndo un po' troppo, nel senso che l'intangibilità dello Stato non viene mai messa in discussione nelle proposte, anche nelle proposte più estreme. Ed è un punto edificante, credo, perché dà anche un senso di responsabilità della classe dirigente antifascista nel momento in cui, caduto il regime nella primavera del 45, si propongono delle situazioni de facto tragiche. Ed è un altro punto che deve essere inserito all'interno di questo nostro discorso. Il dopoguerra in qualche misura dà ragione alle idee federaliste e autonomiste della resistenza, perché i CLN, lontani da un centro che ancora non ha capacità di interagire col territorio, lontani dalla possibilità di comunicare con questo centro, manifestano delle grandi capacità. Il CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, gestisce la politica agricola del territorio, gestisce la politica industriale, gestisce il travaglio del passaggio di una guerra al dopoguerra, che sono i momenti di maggior crisi all'interno di un sistema, e li gestisce bene, usando degli strumenti in qualche misura vecchi, se vogliamo, ma anche proponendo delle nuove idee. Ecco, complessivamente quindi è questo il messaggio forte che esce dal periodo 40-45, che è un messaggio che si adatta poi a territorio, Nel Veneto, ad esempio, dove c'era una tradizione pre-unitaria inevitabilmente forte, una storia che aveva conosciuto una continuità di oltre 5 secoli, vengono elaborate delle proposte, soprattutto sul piano regionale. Naturalmente la regione nel Veneto, includendo anche la parte del Friuli che storicamente gravitava più verso appunto verso Venezia, era anche più semplice, il territorio era già definito, ma escono delle proposte, io credo anche di una straordinaria attualità, cioè prima ancora che il dibattito costituente inizi a appunto discutere su come e quanto le regioni devono entrare nell'ordinamento nazionale, già il 27 aprile 1945 cominciano a essere elaborate delle bozze di grande interesse, dove si enuncia il principio stesso della regione, dove si enunciano gli strumenti operativi della regione. E questo è uno dei messaggi che credo oggi sia stato rimosso ampiamente nel dibattito anche e nel rinnovamento della storiografia nazionale. Tutte queste tensioni, tutte queste aspirazioni non hanno colto, non sono state colte molto, che sappia io, da autori. C'è stato un momento molto fecondo che si può datare fine anni 60, metà anni 70, chiaramente perché era il momento in cui le regioni diventavano a statuto ordinario, diventavano operative. Poi, come era successo per il federalismo, tutti questi temi, e quindi il rapporto anche resistenza, federalismo, autonomismo, si è perso un po' per strada, no? Alcuni personaggi che hanno speso una vita intera, credo, per queste idee, sono stati assolutamente rimossi nella storia nazionale. Beh, Spinelli, Teodoro Spinelli si conosce quando muore, come spesso capita, no? E lo si rivaluta quando muore, quando ormai quindi il suo messaggio resta circoscritto alle pagine di libri, di dibattiti, ma non ha più la forza e la penetrazione della proposta politica. Ma anche tutti quegli azionisti che non hanno poi avuto un grande spazio, penso a Ernesto Rossi, ma penso anche a Lussu, come dire, la cultura italiana ha cercato di marginalizzare queste idee. Io ritengo, e poi magari ne parliamo, che l'idea, le proposte del 43-45 siano fondamentali per capire la resistenza. Bobbio lo diceva con grande determinazione negli anni 70, ma anche Claudio Pavone, sempre uno di questi volumi editi alla metà degli anni 70, ammetteva e riconosceva che l'ideologia dell'autonomismo deve considerarsi, citazione, un punto di riferimento necessario per qualsiasi indagine sulla resistenza in generale. Questo perché? Perché è chiaro che quando le persone liberamente scelgono, come fu tra il 43 e il 45, scelgono di diventare soggetti attivi nei processi di cambiamento, qui siamo all'interno dei principi fondamentali del federalismo. Il federalismo investe in pieno la concezione e la delega in pieno alla persona. La persona diventa egli stesso il motore del cambiamento. E quindi Pavone, credo, ha colto in maniera ineccepibile, impeccabile, questa idea. La resistenza fu tante cose, naturalmente declinarla unicamente o solamente con le categorie politiche ormai datate, sorpassate, benché con fondamento che ci hanno accompagnato fino agli anni 70, quindi la prospettiva del nazifascismo, del capitalismo, credo oggi siano limitanti in un'idea di rinnovamento di studi che invece può aprire delle grandi brecce, e soprattutto in questi territori. Noi stiamo parlando in territori che attraverso quella frattura del 43-45 hanno fortemente ripensato poi il loro futuro. Qui vicino ho avuto modo di così studiacchiare attraverso le mie ricerche il Trentino, per esempio. Il Trentino coglie al volo la frammentazione del 43-45. Il CLN Trentino è la chiave di volta attraverso la quale poi far penetrare a livello centrale le istanze autonomistiche. Questo non è successo dappertutto. È chiaro che i CLN, che avevano una debolezza intrinseca, oggettiva, non poterono funzionare in ogni località allo stesso modo. Ma è anche vero che nei CLN, quindi organi di autogoverno dal basso, capillari, distribuiti in tutto il territorio. Sulla storia dei Comitati di Liberazione Nazionale, ormai la storiografia appunto ha raggiunto anche buoni livelli, ma soprattutto si è fermata ai grandi comitati di liberazione. Se noi cominciamo a tradurre sulla carta, quindi anche da un punto di vista geografico, dalla fine del 44, perché i CLN, quelli più piccoli, iniziarono a formarsi verso la fine della guerra, noi vediamo che esce una griglia di strutture che certamente non erano state investite o elette o delegate da qualcuno, cioè, o meglio, avevano una delega istituzionale, e quindi la debolezza di fondo e la grande accusa del Partito Liberale nel governo, nel confronto del governo Parri: voi non siete stati eletti da nessuno, avete una rappresentanza a tempo, la democrazia non si fa così, e quindi i CLN devono al più presto essere sbaraccati, devono essere tolti, possono essere anche pericolosi perché introiettano un'idea di democrazia elettiva, di democrazia plebiscitaria potrebbe essere. Ecco, io credo che se quell'esperienza fosse stata valutata come fortemente spingeva il Partito d'Azione, unico tra i partiti antifascisti a ritenere che l'esperienza dei Comitati di Liberazione Nazionale potesse essere l'anticamera di una ridefinizione importante del territorio, ecco, attraverso quell'esperienza e attraverso il coinvolgimento di migliaia e migliaia di persone, perché qui i numeri spesso possono essere anche così costruiti ad arte, ma su questo terreno io ho studiato per una provincia in particolare tra la guerra e la dopoguerra, la provincia di Treviso. I numeri sono importanti, cioè non erano dei soggetti artificiali, in alcuni casi certo, in alcuni casi, in alcuni territori dove la cultura politica non era molto avanzata, ci furono anche delle presenze così costruite, ma fondamentalmente i Comitati di Liberazione Nazionale riescono a coinvolgere migliaia di persone rappresentative delle classi sociali, di ogni classe sociale, e quindi riescono a cogliere immediatamente i bisogni del territorio. Il dopoguerra italiano nel nord Italia è un dopoguerra morbido per certi aspetti, perché attraverso anche questi strumenti si riuscì a individuare subito le problematiche fondamentali del territorio. Non è un aspetto da poco. Naturalmente questo rilanciava ancora di più un'idea di autogoverno. Un'idea di autogoverno che, come dicevo prima, piano piano comincia a sfumare dal 47. Dal 47, quando i lavori dell'Assemblea Costituente ormai sono a buon punto, ma le sinistre escono dai governi nazionali, la contrapposizione tra blocchi ormai è evidente, non interessa più nessuno parlare di regioni, di autonomia, di federalismo. Possono essere anche dei cavalli di Troia per i rispettivi blocchi. Le amministrazioni pubbliche in mano a giunte di sinistra naturalmente non fa piacere per il blocco che si richiama agli Stati Uniti d'America, e l'Unione Sovietica e con il PC vicino non crede nella frammentazione del territorio. E quindi si cala il sipario, nebbia, ancora nebbia, l'idea federalista torna ad essere, da progetto politico importante, incisivo e modificante il territorio e la vita del territorio, ad essere un'idea circoscritta agli ambienti culturali, accademici, elitari. Ma sì, lasciamoli parlare, ma sì, lasciamoli scrivere, intanto poi non hanno più un'incidenza reale nella prassi politica. Questo è rimasto appunto fino alla fine degli anni Ottanta, quando il territorio, il micro, il particolare, torna prepotentemente sulla scena politica italiana e con alcune distorsioni, credo anche pericolose, viene riproposto come progetto politico, senza però recuperare lo spirito, mi sembra, e l'eredità che si erano maturate nel corso degli anni 30 e degli anni 40. Il federalismo ci sarà? Io sono particolarmente scettico. Sono scettico perché a questo punto forse avevano ragione i federalisti europei puri. Oggi ci sarebbero le condizioni per creare prima una federazione europea. Forse all'interno di una federazione europea e quindi una federazione che riesca, a patto che ci riesca, a conciliare le diverse tensioni che ci sono all'interno del territorio, per effetto opposto si potrà riverberare all'interno del nostro ordinamento un'ondata federalista. A me sembra che il federalismo italiano sia sempre stato corteggiato da molti, e poi però nel fatto, nel concreto, svuotato dei suoi postulati migliori. La storia della Resistenza, ripeto, il 43-45 ci permette, è una lente per entrare nel vivo del dibattito e forse anche per capire quali sono le caratteristiche, le aspirazioni che i federalisti di allora avevano nei confronti del nostro territorio. Un messaggio quindi da recuperare, recuperare anche attraverso nuove ricerche. La stampa clandestina spesso si ferma su questo nodo, non direttamente magari chiamandolo federalismo, ma sul nodo della ricomposizione, della ridefinizione dei poteri. Ed è, penso, una frontiera che gli eventi di oggi ci hanno riaperto. Per molti anni, pur avendo sotto gli occhi questi documenti, questi giornali, forse perché avevamo anche un abito mentale diverso, non abbiamo colto la forza del messaggio che usciva. Riprenderle oggi, riattualizzarle o quantomeno studiarli, credo che sia uno strumento migliore per non solo conoscere le vicende di allora, ma anche conoscere un po' le vicende che sono succedute per oltre 50 anni e che oggi naturalmente noi viviamo ogni giorno. Grazie. Ringrazio Marco Borghi. E se tanto è vero che appunto la questione del federalismo viene in qualche modo congelata per decenni, rimane così un patrimonio di alcuni intellettuali, pensiamo al gruppo di Spinelli, il gruppo che si coagula ad esempio intorno all'Università di Pavia, no? Un movimento federalista europeo, e poi solamente nei primi anni 90, anche sotto l'incubo dei movimenti etrofederalisti, si ricomincia a parlare appunto di federalismo, di sentimento nazionale italiano e cose di questo tipo. Perché è sempre l'urgenza politica, no? Poi che ti porta a elaborare teoricamente queste cose. Così come sicuramente interessante anche il discorso appunto che faceva sul fatto che nel CLN Trentino ci fosse un dibattito sull'autonomismo, no? Perché anche lì c'era proprio un problema così reale, concreto, no? Pensiamo alle posizioni di Manci, ad esempio, sul federalismo,